che tu m'hai lasciato, volevo farla finita, volevo morire suicida d'amore, d'amore per te. Ma il vento sfiorandomi il viso m'ha detto non fare pazzie, aspetta domani, soltanto domani, e poi lo farai. Però oggi non mi va di morir per te. Ho il presentimento che non lo farò. Ormai tu non esisti. Ormai tu non esisti. Da quando tu mi sei lontano, riscopro il mondo più caro, il sole che nasce, il giorno che muore, è tutto per me. Mi sono disintossicato di te, del tuo veleno. Adoro la vita, sorrido di gioia, e tu non ci sei. Perciò oggi non mi va di morir per te. Ho il presentimento che non lo farò. Ormai tu non esisti. Ormai tu non esisti. Ormai tu